Europa 24. Buongiorno da Anna Marino e dalla redazione. Accordo fatto all'unanimità per scongiurare l'addio all'euro della Grecia dopo 17 ore di negoziato in quello che passerà alla storia come il vertice dei capi di Stato europei più lungo, è stata evitata la Grexit, neppure temporanea. Lo ha riferito per primo via Twitter il premier belga Charles Michel con la parola accordo. Subito dopo la notizia è stata confermata dallo stesso presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. I welcome the progress and the constructive Ringrazio i progressi e la posizione costruttiva della Grecia che ha ricreato la fiducia tra i partner dell'Eurozona, ha detto Tusk. L'Eurosummit ha raggiunto un'intesa unanime e siamo pronti per partire con programma di supporto finanziario del Fondo Salva Stati e le riforme. Serie, l'accordo, sinfonia in lingua greca sarà triennale con un sostegno compreso fra 82 e 86 miliardi, verrà costituito un fondo da 50 miliardi di privatizzazioni di asset statali con sede ad Atene e non in Lussemburgo. Le banche avranno 25 miliardi per essere ricapitalizzate per fornire subito liquidità alla Grecia che il 20 luglio deve già rimborsare 3,5 miliardi alla BCE, ma per ottenere i fondi Atene ha 3 giorni in cui approvare un pesante pacchetto di riforme: fisco, pensioni, accesso al mercato, riforme giudiziarie e direttiva sul salvataggio delle banche. La sfida più dura arriva ora per Alexis Tsipras, il premier greco. Dopo aver raggiunto un accordo con l'Eurogruppo deve tornare ad Atene per ottenere l'ok del Parlamento. Dossiamo mia sclerì macchie 6 mesi ora. Netto infatti il suo commento a caldo al termine del vertice: abbiamo combattuto una dura battaglia, ora lo faremo in Grecia contro gli interessi consolidati, abbiamo evitato il piano per uno strangolamento finanziario per il collasso del sistema bancario, ottenuto l'alleggerimento del debito e finanziamenti a medio termine e evitato il trasferimento dei nostri beni all'estero, un messaggio di dignità inviato al mondo. Il numero uno della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, cerca di ricomporre la frattura aperta durante le trattative con la Grecia. In questo compromesso, dice, non ci sono né vincitori né sconfitti, non penso che i cittadini greci siano stati umiliati, si tratta di un accordo tipicamente europeo. Detta invece i tempi il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem: se tutto va bene entro la fine della settimana può essere deciso il mandato per negoziare il sostegno del Fondo Salva Stati europeo, infatti mercoledì un nuovo Eurogruppo si riunirà per valutare l'impegno di Atene, nel frattempo quei paesi che devono sottoporre l'accordo ai loro parlamenti convocheranno i deputati e dentro questa settimana si dovrebbe arrivare infatti al via libera definitivo. Provata ma soddisfatta la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del vertice, che ha puntualizzato che ora è possibile ristabilire la fiducia tra i partner dell'Eurozona con buona pace del Bundestag, per cui il via libera, sono state create le condizioni se tutto andrà come deve. Der Plan A ist jetzt realisiert, insofern e con decisione sentiamo ha affermato e concluso che sulla Grecia è stato approvato il piano A e non c'è nessun bisogno di un piano B. Ed è tutto, appuntamento con Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.